ti sento, e chi mo canta priessa a me, oe, patramento, la faccia luna per vedere, ma tutta sta marina, a broce da resina, se dici guarda quana femmina che fa. Maruzzella, Maruzzella, te mi srin dall'occhio ma e me mi s'invietta a me non dispiacere. Sto cuore mi fai sbattere più forte l'onna quando cielo è scuro. Prima mi dice sì, dolce, dolce mi fai morire, Maruzzella, Maruzzella. Oh, chi mi aiuta se tu non vieni a mi aiutare? M'è venuta una voglia ardente di passare, e viene di noi bella, e dammi sta bucchella, capo m'ha velenà, e zucchero si fa. Maruzzella, Maruzzella, te mi srin dall'occhio ma e me mi s'invietta a me non dispiacere. Sto cuore mi fai sbattere più forte l'onna quando cielo è scuro. Prima mi dice sì, poi dolce dolce mi fai morire, Maruzzella, Maruzzella. Prima mi dice sì, poi dolce dolce mi fai morire, Maruzzella.